è ripieno di strade. Solo Dio sa domani cosa accade. Ho il sangue agli occhi e il ghiaccio nelle vene. Togli lo sguardo al cielo, sei legato alle catene. Abbiamo un quartiere pieno di strade. Solo Dio sa domani cosa accade. Ho il sangue agli occhi e il ghiaccio nelle vene. Togli lo sguardo al cielo, sei legato alle catene. Non so più, troppe cazzate in TV. Sprofondo sempre più giù, questo lo sai anche tu. La vita è profonda, ma cosa ci circonda? Una nave che affonda, mistero della Gioconda. Strano come un hula hop, che cos'è? Hip hop, mandato a un sexy shop. Club Dogo, vi prego stop. Scegli con saggezza, questa è la certezza. Giri nella piazza, è la tua debolezza. Sono stato scelto, m'hanno travolto. È il loro vero volto, parlo e non ascolto. Vuoi fare soldi, non aspettare i saldi. Per questo t'arrendi, sbagli i tuoi comandi. Vuoi fare una rapina, un lavoro con la cocaina. Una laurea in medicina, meglio trasferirci in Cina. Foto in modo duro l'asfalto, troppe vicende sono coinvolto. Tutti i semi piantati raccolto, calar del sole, cambio volto. Abbiamo un quartiere pieno di strade. Solo Dio sa domani cosa accade. Ho il sangue agli occhi e il ghiaccio nelle vene. Togli lo sguardo al cielo, sei legato alle catene. Abbiamo un quartiere pieno di strade. Solo Dio sa domani cosa accade. Ho il sangue agli occhi e il ghiaccio nelle vene. Togli lo sguardo al cielo, sei legato alle catene. L'emozione più bella che sento, l'errore più grande che mi pento. Non sbaglio più, sto molto attento, considerato da tutti un violento. False allarme, false partenze, portate avanti stupide usanze. Invidiosi di te, quelle stronze, fai brutta fine, che coincidenze. Preparati per la seconda parte, un giorno andremo tutti su Marte. Questa è la nostra sorte, le bugie hanno le gambe corte. Tutti attraversano brutti momenti, quando finiranno questi aumenti. Dalla crisi mangeremo cementi, non possiamo non stare attenti. Hanno provato a darmi la caccia, ho guardato la morte in faccia. Cuore duro come la roccia, non mollo fino all'ultima goccia. Pensi di fare il gangster, assomigli a commissario Winchester. Non hai nemmeno lo scooter, lavori come babysitter. Voglio vedere fino a che punto arrivi. Messo qui scritto i miei obiettivi, che lavorare con i negativi. A te la scelta in che modo vivi. Abbiamo un quartiere pieno di strade. Solo Dio sa domani cosa accade. Ho il sangue agli occhi e il ghiaccio nelle vene. Togli lo sguardo al cielo, sei legato alle catene. Abbiamo un quartiere pieno di strade. Solo Dio sa domani cosa accade. Ho il sangue agli occhi e il ghiaccio nelle vene. Togli lo sguardo al cielo, sei legato alle catene.